Bisognava vedere, quando si parlava di donne che le piacevano poco, come cambiava subito faccia se, a proposito di una di loro, si nominava per esempio sua cognata. «Oh, è incantevole!» diceva con un tono di penetrante sicurezza. La sola ragione che ne potesse addurre era che la signora in questione aveva rifiutato di essere presentata alla marchesa di Chaussegur e alla principessa di Silistra. Non aggiungeva che la stessa signora aveva anche rifiutato di essere presentata a lei, alla duchessa di Guermantes. La cosa, tuttavia, era successa e da quel giorno la duchessa si arrovellava su cosa mai potesse passare per la testa di quella signora di cui era così difficile fare la conoscenza. Moriva dalla voglia di essere ricevuta a casa sua. I personaggi del gran mondo sono talmente avvezzi a essere cercati che chi li fugge è per loro come una fenice e cattura la loro attenzione. Il vero motivo dell'invito che mi aveva rivolto era dunque nella mente di Madame de Guermantes, da quando non l'amavo più, che non cercavo i suoi parenti sebbene loro mi cercassero? Non lo so. In ogni caso, essendosi decisa ad invitarmi, voleva onorarmi con ciò che aveva di meglio in casa e tenere lontani gli amici che avrebbero potuto dissuadermi dal tornare, quelli che conosceva per noiosi. Non avevo saputo a che cosa attribuire il cambiamento di rotta della duchessa quando l'avevo vista deviare dal suo cammino stellare per venire, effetto di cause ignote, a sedersi al mio fianco e invitarmi a pranzo. In mancanza di un senso speciale che ci ragguagli in proposito, ci figuriamo che le persone che conosciamo appena, nella fattispecie per me la duchessa, pensino a noi soltanto nei rari momenti in cui ci vedono. Ora, questo oblio ideale nel quale ci figuriamo d'essere relegati è assolutamente arbitrario. E così, mentre, immersi nel silenzio della solitudine, simile a quello di una notte serena, immaginiamo le varie regine dell'alta società in atto di percorrere, a una distanza infinita, la loro strada celeste, non possiamo sottrarci a un soprassalto di inquietudine o di piacere se dallassù, come un aerolito dove si è impresso il nostro nome che credevamo ignoto su Venere o Cassiopea, piomba sino a noi un invito a pranzo o un pettegolezzo cattivo. Forse, qualche volta consultando, secondo il modello dei principi persiani, che stando al libro di Esther si facevano leggere i registri con i nomi di quelli fra i loro sudditi che si erano distinti per zelo, consultando la lista delle persone animate da buoni propositi, Madame de Guermantes aveva pensato di me: ecco uno da far venire a pranzo. Ma altri pensieri l'avevano distratta. Immerso in cure tumultuose, un principe da nuovi oggetti e senza posa attratto, sino al momento in cui mi aveva scorto, solo come Mardocheo, davanti alla porta del palazzo. E la mia vista, avendole rinfrescato la memoria, aveva provato, come assuero, il desiderio di colmarmi di doni. Devo dire, d'altra parte, che una sorpresa di segno opposto doveva tener dietro a quella da cui ero stato folgorato al momento dell'invito di Madame de Guermantes. Poiché la prima sorpresa mi era parso più modesto da parte mia e maggiormente consono alla mia gratitudine non tentare di dissimularla, e avevo anzi espresso con enfasi la gioia che mi procurava, Madame de Guermantes, che si disponeva a lasciarmi per un ultimo impegno mondano, mi disse, quasi a giustificarsi e nel timore, vedendomi così stupefatto del suo invito che non avessi ben capito da chi mi veniva: «Sapete, sono la zia di Robert de Saint-Leus, vi vuole tanto bene, e del resto ci siamo già incontrati proprio in questa casa». Risposi che lo sapevo, aggiungendo che conoscevo anche il signor di Charlieu, il quale era stato così buono con me a Balbec e a Parigi. Madame de Guermantes parve meravigliata e mi sembrò che i suoi sguardi si volgessero, come per una verifica, a qualche pagina più remota del suo libro interiore. «Come? Conoscete Palamède?» Il nome assumeva, in bocca a Madame de Guermantes, una grande dolcezza, a causa dell'involontaria semplicità con cui parlava di un uomo tanto brillante, ma che, per lei, era semplicemente suo cognato e il cugino assieme al quale era cresciuta. E nel grigio indistinto in cui si celava, ai miei occhi, la vita della duchessa, quel nome, Palamède, infondeva come la luminosità delle lunghe giornate d'estate, durante le quali, fanciulla, aveva giocato con lui a Guermantes nel giardino. Inoltre, in quel periodo della loro vita ormai da gran tempo trascorso, Oriane de Guermantes e suo cugino Palamède erano stati notevolmente diversi da come erano poi diventati, in particolare Charlieu, tutto preso da inclinazioni artistiche in seguito così ben represse, che rimasi attonito apprendendo che era stato lui a dipingere l'immenso ventaglio a iris gialli e neri sfoggiato in quel momento dalla duchessa. Avrebbe potuto persino mostrarmi una sonatina che il barone un tempo aveva composta per lei. Ignoravo nel modo più assoluto che egli assommasse tanti talenti di cui non parlava mai. Va detto, tra l'altro, che il signor di Charlieu non era per niente entusiasta di venir chiamato in famiglia Palamède. Quanto a Mémé, sarebbe stato ancora comprensibile che non gli piacesse. Simili insulsi diminutivi testimoniano quanto poco l'aristocrazia capisca la propria poesia. La stessa cosa, d'altronde, succede all'ebraismo, se è vero che un nipote di Lady Rufus Israel, che si chiamava Mosè, veniva comunemente designato in società come Momo, e insieme denunciano la sua preoccupazione di dissimulare l'importanza che essa attribuisce a ciò che è aristocratico. Ora, il signor di Charlieu possedeva in questo campo una più fervida immaginazione poetica e un orgoglio più esibito, ma la ragione per cui non gradiva Mémé non era questa. E infatti si estendeva anche a un bel nome come Palamède. La verità è che, giudicandosi, sapendosi membro di una famiglia principesca, avrebbe voluto che il fratello e la cognata dicessero di lui Charlieu, così come la regina Maria Amelia o il duca d'Orléans potevano dire dei propri figli, nipoti e fratelli Joinville, Nemours, Chartres, Paris. «Che misterioso quel Mémé!» esclamò la duchessa. «Gli abbiamo parlato tanto di voi e lui ci ha detto che sarebbe felicissimo di conoscervi, proprio come se non v'avesse mai visto. Ammetterete che è ben strano e mi dispiace dirlo di un cognato che adoro e di cui ammiro lo straordinario valore, delle volte anche un po' folle». Fui molto colpito da tale aggettivo applicato al signor di Charlieu, e mi dissi che questa parziale follia spiegava forse certe cose, per esempio che fosse parso così affascinato dal progetto di chiedere a Bloch che picchiasse sua madre. Mi convinsi che, non solo per ciò che diceva, ma per il modo in cui lo diceva, Charlieu era davvero un po' folle. La prima volta che s'ascolta un avvocato o un attore, si rimane sorpresi dal loro tono, così diverso da quello colloquiale, ma poiché ci si rende conto che tutti trovano la cosa affatto naturale, non se ne fa parola con gli altri, non se ne fa parola con se stessi, ci si limita a valutare il grado di talento. Tutt'al più d'un attore del Théâtre Français si pensa: ma perché invece di lasciar ricadere il braccio che aveva alzato, l'ha fatto scendere a piccole scosse intervallate da pause per un totale di almeno 10 minuti? O di un Laborie, perché da quando ha aperto la bocca ha tirato fuori quei suoni tragici, inattesi, per dire la cosa più semplice del mondo? Ma siccome tutti lo ammettono a priori, non ne siamo per niente sconvolti. Allo stesso modo, riflettendoci, si constatava che il signor di Charlieu Parlava di se stesso con enfasi, in un tono che non era assolutamente quello del normale discorrere. Sembrava che ogni minuto gli si dovesse chiedere: «Ma perché gridate tanto? Perché siete così insolente?» Tutti quanti, di fatto, sembravano aver tacitamente convenuto che andava bene così, e si entrava a far parte della cerchia che lo festeggiava durante i suoi sproloqui. Ma non c'è dubbio che, in certi momenti, un estraneo dovesse avere l'impressione di ascoltare le grida di un demente. «Ma», riprese la duchessa, con la lieve impertinenza che si innestava in lei sulla semplicità, «siete proprio sicuro di non confondervi? Che state parlando proprio di mio cognato Palamed? È vero che gli piacciono i misteri, ma questa mi sembra un po' grossa». Risposi che ne ero sicurissimo e che, evidentemente, il signor di Charlieu non aveva afferrato bene il mio nome. «Comunque, ora vi devo lasciare», mi disse, come a malincuore, Madame de Guermantes. «Devo passare un istante dalla principessa di Ligne. Voi non ci venite?» «Già, non amate andare in società. Avete perfettamente ragione, è una seccatura. Se non ci fossi costretta... Ma è mia cugina, non sarebbe carino. Mi dispiace egoisticamente per me. Avrei potuto portarvi da lei e anche riaccompagnarvi a casa. Allora vi dico arrivederci e sono contenta per venerdì». Che Charlieu fosse arrossito di me davanti al signor d'Argencourt, ancora passi, ma che persino con sua cognata, che aveva una così alta opinione di lui, egli negasse di conoscermi, pur trattandosi di cosa del tutto naturale, dato che conoscevo sia sua zia che suo nipote, questo non riuscivo proprio a capirlo. Concluderò osservando che, da un certo punto di vista, c'era in Madame de Germain un'autentica grandezza, che consisteva nel cancellare completamente tutto ciò che altri avrebbero solo incompletamente dimenticato. Se non mi avesse mai incontrato quando la tormentavo, la inseguivo, la abbraccavo durante le sue passeggiate mattutine, non avesse mai risposto con esasperata impazienza al mio saluto quotidiano, non avesse mai mandato al diavolo Saint-Lieu quando questi l'aveva supplicata di invitarmi, non avrebbe potuto avere con me modi più nobilmente e naturalmente garbati. Non solo non si dilungava in spiegazioni retrospettive, in mezze parole, in sorrisi ambigui, in sottintesi, non solo palesava nella sua presente affabilità, del tutto scevra di arretramenti o reticenze, qualcosa di non meno fieramente rettilineo rispetto alla sua maestosa figura, ma i motivi di risentimento che poteva aver nutrito in passato verso qualcuno erano così totalmente ridotti in cenere, e questa cenere era a sua volta rigettata così lontano dalla sua memoria, o perlomeno dal suo modo d'essere, che nel guardare il suo viso, ogni volta che le accadeva di risolvere con la più bella semplificazione ciò che per tanti altri sarebbe stato pretesto a residui di freddezza, a recriminazioni, si aveva l'impressione di una sorta di purificazione. Ma se ero sorpreso dal mutamento prodottosi in lei verso di me, quanto più lo ero di scoprirne in me stesso uno tanto più grande verso di lei. Non c'era forse stato un tempo in cui riprendevo vita e forza soltanto per cercare, architettando sempre nuovi progetti, qualcuno che potesse farmi ricevere da lei e, dopo quella prima felicità, procurarne chissà quante altre al mio cuore di volta in volta più esigente? Era l'impossibilità di trovare alcunché che mi aveva condotto a Doncier per vedere Robert de Saint-Lieu. E adesso era proprio in conseguenza di una lettera di Robert che ero agitato, ma a causa di Madame de Stermaria e non di Madame de Guermantes. S'aggiunga, per finirla con quella serata, che mentre era ancora in corso si verificò un episodio, smentito alcuni giorni dopo, che non mancò di meravigliarmi, guastò per qualche tempo i miei rapporti con Bloch e costituisce di per sé una di quelle curiose contraddizioni di cui troveremo la spiegazione alla fine di questo volume. Sodoma primo. Dunque, in casa di Madame de Villeparisis, Bloch non smetteva più di vantarmi l'amabilità del signor de Charlieu, il quale, quando lo incontrava per la strada, lo guardava negli occhi come se lo conoscesse, avesse voglia di conoscerlo, conoscesse perfettamente la sua identità. Lì per lì ne sorrisi, data la durezza con cui a Balbec Bloch si era espresso sul conto del medesimo Charlieu, e pensai semplicemente che Bloch conoscesse il barone senza conoscerlo, come suo padre conosceva Bergotte, e che ciò che egli prendeva per uno sguardo amabile fosse uno sguardo distratto. Ma, alla fine, Bloch si diffuse in tanti dettagli e parve così certo che, a due o tre riprese, Charlieu avesse voluto abbordarlo, che, ricordandomi d'avere parlato di lui al barone, il quale, di ritorno da una visita a Madame de Villeparisis, m'aveva fatto per l'appunto diverse domande sul suo conto, formulai l'ipotesi che Bloch non mentisse, che Charlieu avesse saputo come si chiamava, che si trattava del mio amico, eccetera, eccetera. Così, qualche tempo dopo, a teatro, chiesi al signor di Charlieu di potergli presentare Bloch, e avuto il suo assenso andai a cercarlo. Ma non appena Charlieu lo vide, uno stupore subito represso si dipinse sul suo volto, dove gli subentrò un lampeggiante furore. Non soltanto non tese la mano a Bloch, ma ogni volta che il malcapitato gli rivolse la parola, lui rispose nel tono più insolente, con voce irritata e offensiva. E così Bloch, il quale a suo dire non aveva ricevuto dal barone, sino a quel momento, altro che sorrisi, credette che, anziché raccomandarlo, io l'avessi danneggiato, nel corso del breve colloquio in cui, conoscendo la propensione di Charlieu per le forme protocollari, gli avevo parlato del mio amico prima di condurlo alla sua presenza. Bloch ci lasciò, distrutto come se avesse tentato di montare un cavallo continuamente pronto a prendergli la mano, o di nuotare contro onde capaci di ributtarlo senza posa sulla spiaggia. E non mi rivolse più la parola per 6 mesi.